известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. First, I'd like to say a few words about the situation in Iran. The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings, and imprisonments of the last few days. I strongly condemn these unjust actions. You said about Iran that you were appalled. Questo è il salto di qualità prodotto da Barack Obama nella conferenza stampa di ieri, che i giornali di oggi concordano nel chiamare, nel definire test, insomma, una, diciamo, turbolenta conferenza stampa in cui si sono capite una serie di cose che possiamo provare ad elencare. Prima cosa, è vero, è effettivo, lo si vede con i propri occhi, se per esempio si è assistito alla teletrasmissione della conferenza stampa del presidente americano ieri, che è proprio finita, che è andata in soffitta la famosa luna di miele tra i media di Oltreoceano e Barack Obama. Ormai i rapporti sono perlomeno dispettosi, a dir poco, quando non ci sono delle ripetute punzecchiature da una parte e dall'altra. Anche Barack Obama, che ama usare l'arte dell'ironia nel rispondere, certe volte anche nello spiazzare i suoi interlocutori, i reporter che lo interrogano, lo fa adesso con una punta di malizia in più, se possiamo dire così. E appunto lo scenario che si presenta non è più quello di una love story infinita tra i media e i loro legittimi rappresentanti alla Casa Bianca e il Presidente. Le cose non stanno più così. La seconda cosa è che effettivamente il salto di qualità, e questa è la cosa certamente più importante, il salto di qualità dell'atteggiamento di Barack Obama nei confronti dell'Iran è stata piuttosto netto. Siamo sconvolti dalla violenza che sta andando in scena per le strade di Teheran, ha detto il presidente, ha ribadito che c'è una grande attenzione e un atteggiamento di seria riprovazione nei confronti di quanto sta accadendo a Teheran, ma al tempo stesso mantiene le sue posizioni il presidente, chiamando in causa proprio lui in prima persona quello che lui stesso ha detto qualche tempo fa, ovvero 20 giorni fa al Cairo, nel famoso discorso che era a tutti gli effetti, non ha mancato di farlo capire anche ieri, un programma espresso, ovvero un indirizzo, un manifesto programmatico, una intenzione di atteggiamento nei confronti degli interlocutori internazionali e in particolare del mondo arabo e dello scenario critico del Medio Oriente. La nostra prima scelta è non interferire negli affari interni delle altre nazioni, è un atteggiamento diverso e il mondo si deve un po' abituare a fare i conti con questo atteggiamento, che significa che se il fienile brucia non basta chiudere la porta del fienile e consegnare le chiavi agli americani affinché pensino a spegnere l'incendio. Le cose non vanno più così, un po' perché gli incendi sono stati spenti male, un po' perché spegnere gli incendi costa molto caro allo Stato americano in tanti sensi, a cominciare da quello delle vite umane, un po' perché se si vogliono spegnere gli incendi bisogna collaborare in più agenti, e gli Stati Uniti vogliono tornare a essere uno di questi agenti, quindi, e non l'unico o il principale. Quindi Obama è stato criticato per le titubanze, naturalmente il mondo repubblicano di Washington, ma anche tanto mondo occidentale ha criticato l'apparente titubanza di Obama, che fondamentalmente l'ha confermata, semplicemente rafforzato il proprio atteggiamento di allarme e di guardia nei confronti di quanto dice in Iran, ma non ha modificato sostanzialmente le scelte di comportamento del Dipartimento, in genere dell'amministrazione, nei confronti di quanto accade in Iran, che è in continuo, uno scenario che è in continuo movimento, in continuo aggiornamento, e oggi ne parleremo tra l'altro con un interlocutore. Però prima invece riavviciniamo, perché vogliamo provare a tirare un bilancio su quanto è accaduto nelle ultime ore a Roma in occasione della visita di Benjamin Netanyahu e dei vari incontri che ha avuto. Però vi do, se ancora non lo sapete, una notizia in più che riguarda Barack Obama, prima di chiamare in causa Maria Grazia Nardo, che parlerà con noi di Israele. E la notizia in questione è che alle 16 del 10 luglio, quindi poco dopo lo svolgimento del G8, Barack Obama incontrerà il pontefice Papa Benedetto XVI. L'incontro è fissato per il 10 luglio alle ore 16. L'udienza è stata annunciata dall'agenzia di stampa dei vescovi americani, il Catholic News Service. La sala stampa della Santa Sede non conferma ma non smentisce. Obama sarà in Italia dall'8 al 10 all'Aquila e dintorni per il G8. Già nella serata del 10 è prevista una sua ripartenza dal nostro paese per il Ghana, e quindi qui in mezzo, in questa piccola finestra, si infila questa prima assoluta dell'incontro tra Barack Obama e Benedetto XVI Papa Ratzinger. Quindi gli scenari internazionali vanno tutt'altro che in vacanza, come vedete, e sicuramente lo scenario israeliano lo stiamo monitorando da parecchio tempo. Ci aiuta a farlo con i suoi approfondimenti, i suoi punti di vista Maria Grazia Nardo, ricercatrice di storia internazionale a Firenze, Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, l'avete spesso ascoltato ai nostri microfoni ed è qui anche oggi. Buongiorno Maria Grazia. Buon pomeriggio. Allora, ieri abbiamo con Tramballi provato così al volo, perché si era appena conclusa la conferenza stampa congiunta di Berlusconi e di Netanyahu, a tracciare un bilancio, a capire insomma fra il dire e il fare se c'era di mezzo il mare o qualcosa di più ristretto. 24 ore più tardi, che conclusioni possiamo trarre? Che cosa è successo? Perché e per quali motivi e che cosa si possono mai essere detti Berlusconi e Netanyahu? E con quali magari effetti a breve visibili, Maria Grazia? La visita di Netanyahu in Europa, che poi è una visita limitata a due capitali, Roma e Parigi, e non poteva forse che cominciare da Roma, che assieme alla Repubblica Ceca è probabilmente considerato il miglior amico di Israele in Europa oggi. Credo che sia stato tutto sommato un incontro di routine, un po' perché non ci sono temi particolarmente scottanti. Ci sono state alcune modeste schermaglie con il rimprovero di Netanyahu all'Italia per il grosso interscambio che l'Italia ha con l'Iran, ma questo credo che sia stato puramente diritto. Berlusconi ha parlato degli insediamenti in chiave negativa come ostacolo alla pace, ma detto questo gli altri temi sono stati in perfetta armonia. Per esempio Berlusconi appoggia l'idea di Netanyahu di concedere ai palestinesi una sorta di miglioramento economico, quello che appunto si chiama il piano Marshall per la Palestina, per distrarli dalle questioni politiche. Le due note veramente positive e cordiali, diciamo, sono state da parte dell'Italia l'invito a poter a voler ospitare una conferenza di pace a Erice, e da parte di Netanyahu l'onore piuttosto raro di invitare non solo Berlusconi in Israele, ma addirittura tenere un discorso alla Knesset. E Berlusconi sembrava particolarmente soddisfatto, insomma, di questo invito, era piuttosto, come dire, raggiante. No, è vero, perché è un invito concesso a poche persone. L'ultima che l'ha avuto è stata Angela Merkel, e quindi è la migliore cornice che Israele possa offrire a un ospite di tutto riguardo, e da questo punto di vista Berlusconi farà una cosa che Obama non ha ancora fatto. Senti, per fare un po' gli affari dei nostri cuginetti, a parere tuo che cosa ci va a fare Netanyahu in Francia? Perché proprio in Francia? Anche lì ci può essere un atteggiamento di tirata d'orecchi magari per qualche parentela troppo stretta? Quale può essere il motivo? Non lo so. So che la Francia ha una politica medio orientale estremamente interessante, soprattutto per quanto riguarda i suoi legami con il Libano e anche con la Siria. È probabile che ci siano anche argomenti molto riservati. Non dimentichiamo, anche se molti l'hanno dimenticato, che è stata la Francia a fornire tecnologia militare a Israele, dai primi reattori ai primi aerei e così via. È possibile che questo sommovimento, ci siano delle carte che la Francia voglia giocare? Connesso a questo è anche l'annuncio dato poche ore fa dagli americani di voler rimandare l'ambasciatore in Siria, che era stato ritirato 4 anni fa dopo che era stato assassinato Hariri in Libano, e visti i forti legami che in qualche modo la Francia mantiene con la Siria, anche questo si mescola tra le carte. È un gioco molto complesso e la Francia ha sempre avuto un suo profilo molto segnato in Medio Oriente. Ecco, e per concludere, a proposito di Francia, doveva avere luogo in Francia, a Parigi, un incontro per l'appunto tra Netanyahu e un personaggio di vertice della diplomazia americana come George Mitchell. È stato rinviato questo meeting. Come possiamo leggere questa decisione? È in relazione a quello che sta accadendo o non accadendo nel frattempo in Israele sulla base di queste decisioni o mosse più o meno obbligate da mettere in atto sul cammino della pace? L'argomento ufficiale è che Israele in questo momento non vuole parlare di insediamenti con Mitchell, non si capisce chi dei due ha annullato l'incontro, se gli israeliani o gli americani. Quello che si sa è che è stato appena deciso di dare libero corso a un nuovo blocco di costruzioni, per di più vicino a Ramallah, cioè alla capitale dell'autorità palestinese, un luogo anche fortemente simbolico. Israele manderà il ministro della difesa negli Stati Uniti a parlare di questo la settimana prossima, ma se non si congelano davvero gli insediamenti, soprattutto quelli che si vedono di più come questo, allora la strada di un buon rapporto con gli americani e sulla via sulla pace incontra un suo posto di blocco abbastanza insidioso. E non sembriamo particolarmente sulla buona strada, si può dire. No, però potrebbe essere una serie di schermaglie per vedere fino a che punto l'altro è disposto a fare il cattivo. Grazie a Maria Grazia Enardo questo aggiornamento, poi magari torneremo a parlarne nei prossimi giorni in relazione a questa tappa parigina del breve viaggio di Netanyahu in Europa. Stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, foe, the saints are coming through, and it's all over now. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you. It's all over now, baby blue. Quando suona una chitarra a 12 corde come questa qua che sentite sotto, in linea massima si tratta di Roger McGinn. Quando si tratta di Roger McGinn si tratta dei Birds, poi c'è dietro Bob Dylan, e così un po' d'America di Antan in questo inizio d'estate, dove abbiamo notizie da tutto il mondo da sottoporvi immediatamente. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Io ce n'ho soprattutto una che non so se incavolarmi o comunque prendo te, vai avanti te, che a me mi viene da ridere. Allora, siccome so qual è la notizia, è molto prelibata e tra pochi istanti ne parliamo. Io invece sono andato a rispolverare una vicenda molto laterale, molto dimenticata, che però in realtà ha un valore strategico, quasi geopolitico fondamentale, di cui peraltro avevamo parlato pochi giorni fa qui a Jefferson con il nostro amico Angelo Antonio Rosato, esperto di cose russe, che adesso si trova a Pittsburgh negli Stati Uniti. Parlavamo della base in Kirghizistan che gli Stati Uniti utilizzano per come scalo, insomma, per preparare poi le loro iniziative belliche in Afghanistan, quindi una base dal valore militare fondamentale, l'unico vero approdo degli Stati Uniti, dell'esercito americano, verso le difficili, impervie montagne afghane. C'era il rischio che il Kirghizistan facesse sloggiare i soldati americani, dietro c'era anche la lunga mano di Mosca e dei russi, e invece ieri è stato annunciato l'accordo tra Kirghizistan e Stati Uniti. Non si sa bene cosa in cambio gli americani avranno dato. Soldi. Soldi, può darsi, come diceva peraltro il nostro Angelo Antonio, dollari, dollari, dollari. Ebbene, la cosa più interessante a caldo, insomma, per la possibilità di utilizzare questa base aerea di Manas, è che Mosca l'ha presa veramente male, certo. Perché ha detto che sui giornali di Mosca si legge che è una sorpresa estremamente spiacevole, e poi arrivano le minacce perché la Russia intende rispondere in modo adeguato. Formalmente la base viene trasformata in centro di transito di convogli non militari destinati alle truppe americane in Afghanistan, poi in realtà, e sono sempre i russi con perfidia a sottolinearlo, cambia solo l'insegna e non vi è grande differenza tra base militare e centro di transito merci. Dovevano offrire di più, dovevano dare qualcosa, e gli americani questa volta sono arrivati prima dei russi. Insomma, la notizia in questione di cui vi parlavo prima riguarda il caviale iraniano, di cui so che siete tutti, cari ascoltatori, consumatori accaniti, no? Non c'è sera, non c'è festa che non vi vogliate, no? Corredare la tavola con un bel piattone di caviale iraniano. E allora sta partendo, per fortuna, il boicottaggio del caviale iraniano. Uno un po' si arrabbia, dice: no, ma insomma, se dobbiamo boicottare sul caviale, li boicottiamo. È un'iniziativa olandese, dietro c'è un imprenditore che dice: non darò più denaro a un regime che sta massacrando la popolazione. Insomma, si favorirà da oggi in poi il caviale di altri mercati, russo, il caviale russo. Quello è il primo ti trovo estremamente impreparato scenario del caviale contemporaneo. Di conseguenza, questa pare che l'iniziativa sia stata accolta in Olanda con grande successo e grande interesse. Noi stiamo pensando seriamente di farcene anche un po' così, no? Portabandiera in Italia, questo boycott iranian. Quando caviar è stata l'ultima volta che hai mangiato caviale iraniano? Io ho mangiato una volta sola in vita mia, era tanti, e già tanti anni fa, ma tanti. Allora, cronaca, notizia di cronaca un po' bizzarra, perché arriva dal Veneto, dove i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Venezia, insieme poi al nucleo di Padova, hanno messo i sigilli a 4 aziende tra Padova e Rovigo. E adesso però arrivo anche alla vicenda internazionale che sta dietro, perché sono finiti agli arresti domiciliari il proprietario della ditta e poi una cittadina cinese, perché a quanto pare c'era un flusso di rifiuti tossici che dal Veneto, ma non solo, anche da Genova e da Ravenna, partiva via nave e arrivava persino in Cina. Era la destinazione finale di questi rifiuti tossici, quindi sembra una gomorra allargata così su scala davvero planetaria. Pare che dal 2005 siano arrivati oltre 230.000 tonnellate di rifiuti tossici in Cina, e non si sa bene poi la fine che abbiano fatti questi pericolosissimi rifiuti. E quindi vi confermo, per concludere, quanto detto prima con Maria Grazia Nardu, è ufficiale, lo ha confermato anche Barack Obama, i rapporti tra Stati Uniti e Siria si erano interrotti nel 2005 quando l'amministrazione Bush richiamò a Washington l'ambasciatore americano a Damasco in segno di protesta per l'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafik al-Hariri, per il quale sono sospettati di coinvolgimento appunto i servizi segreti siriani. Come cerchiamo di illustrare, spiegare e anche elaborare, ragionarci sopra, l'atteggiamento americano nei confronti del mondo sta cambiando. Questa è una cosa molto interessante, perché è destinata poi a modificare a catena tutta una serie di equilibri e forse anche a provocare alcuni eventi, a non provocarne altri. Non a caso appunto c'è la decisione di Obama e dei suoi di inviare un nuovo ambasciatore in Siria dopo un'assenza di 4 anni, apertura decisamente significativa verso un paese arabo. La Siria non è più stato Canaglia? Certo, certo, e non solo, è un paese con un'influenza in, una, in un'area fondamentale, certo. Fondamentale e quindi il lavoro, come dire, a rete, no? A rete di rapporti su cui Barack Obama ha fatto capire di voler basare le prossime sue strategie, sta prendendo corpo. Quel discorso del Cairo, ripeto, era veramente un manifesto. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. E dunque torniamo in attesa di perfezionare il collegamento, torniamo ad analizzare questi contraccolpi dei fatti iraniani e negli Stati Uniti, in relazione soprattutto a questo abbandono, almeno parziale, almeno nelle espressioni, come dire, di emozione personale espresso da Barack Obama, lasciato proprio un po' per strada le cautele nel corso della conferenza stampa di ieri. Ha usato per la prima volta la parola condanna per caratterizzare quelle che ha definito le azioni ingiuste del regime iraniano su cittadini che protestano. Ha evocato, e anche questa è una citazione letterale, seri dubbi sulla legittimità delle elezioni. Tuttavia lascia aperta la opportunità di un dialogo con Teheran. Se gli iraniani risponderanno all'offerta di dialogo diretta, gli Stati Uniti mantengono la porta aperta. Una condanna di indignazione nei confronti della, come dire, della cattiva, impossibile gestione degli effetti collaterali di una manifestazione di volontà popolare come la scelta di un presidente. Questa è la presa di posizione di Barack Obama, anche sull'onda emotiva che negli Stati Uniti è fortissima della circolazione delle drammatiche immagini della morte di Neda Soltan. Oggi occupa tutte le prime pagine dei giornali americani, tra l'altro i ritratti biografici di questa ragazza di 26 anni si sprecano, si approfondiscono, si insiste molto proprio per rendere più comprensibile in termini americani americani la casualità dei fatti era, non era una passionaria, non era una persona che aveva deciso di sposare fino in fondo la causa della contestazione, della protesta contro gli esiti delle presidenziali, era una persona, era una giovane capitata lì un po' per caso, sicuramente incuriosita anche per motivi culturali da quanto stava andando in scena in quei momenti per le strade di Teheran, al punto da voler dare un'occhiata e abbastanza per prendersi il proiettile di un cecchino. C'è qualcosa di profondamente ingiusto, ha detto Barack Obama. La protesta di Teheran non è un esempio isolato, non è una piccola esplosione di rabbia qua e là, e ci sono anche seri dubbi sulla legittimità delle elezioni. Però, appunto, secondo il suo intendimento, secondo la sua visione politica, deve restare aperto un sentiero per Teheran perché l'Iran possa migliorare i suoi legami con la comunità internazionale nel rispetto della sua sovranità, delle sue tradizioni culturali e della sua fede. Sono tentativi di distrarre la gente da quello che sta succedendo veramente nel paese. La strategia stantia di fare di altri paesi un capro espiatorio non funzionerà più in Iran, ha detto ancora il presidente. Stati Uniti e Occidente non c'entrano. Questa crisi riguarda i cittadini iraniani, è il futuro che spetta a loro scegliere, a loro e solo a loro. Alziamo gli occhi e sugli schermi di CNN, non a caso, stanno ancora passando, come in modo ormai ossessivo capita da 48 ore, le immagini montate di una serie di ritratti di Neda, la ragazza per cui qualcuno addirittura ha proposto un po' assurdo un premio Nobel, insomma. Non sappiamo ancora come andrà a finire, ha detto, ha concluso il presidente, aggiungendo che c'è ancora tempo perché le autorità iraniane riconoscano e rispettino le norme universali e i principi della libertà. Questo ieri Obama, ma oggi le reazioni sono ben diverse da parte iraniana. Il ministro degli interni Sadek Masuli, che viene citato dall'agenzia Fars, ha risposto duramente: non solo la Gran Bretagna ma anche gli Stati Uniti sarebbero coinvolti nella organizzazione dei disordini in Iran. Questo afferma Masuli. In pratica è un complotto, in pratica è una provocazione, in pratica ci sono agenti agitatori che si stanno muovendo, stanno provocando il disordine sociale in Iran. La Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il regime sionista di Israele sono i principali elementi coinvolti nei recenti disordini, ha detto ancora Masuli, aggiungendo che tutti i gruppi terroristi sono stati mobilitati a questo fine. Masuli ha anche aggiunto che la CIA avrebbe fornito sostegno finanziario ai rivoltosi, e qui riecheggiano, no, i modi in cui i bene informati dei think tank di Washington qualche anno fa ci spiegavano come funzionava l'atteggiamento di spargimento della democrazia nel mondo da parte del regime guidato dell'amministrazione guidata da George W. Bush nei confronti dei regimi che venivano giudicati implausibili, o membri della famosa catena degli stati canaglia. Dovremmo aver stabilito però nel frattempo il collegamento con Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Teheran, autore tra l'altro di un eccellente articolo stamattina in prima pagina del Corriere della Sera, in cui si disegna una situazione tutt'altro che rosea, ma anche lui, anche Andrea, se abbiamo capito bene, rispedito al mittente dalla burocrazia iraniana. Andrea, prima di tutto buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi ascoltatori. Ti hanno anche a te non rinnovato il visto, se abbiamo capito bene. Sì, la scusa è stata quella di tutti, d'altra parte le elezioni sono finite, perché vi interessa ancora rimanere in Iran? C'è una certa ironia a volte anche in queste faccende. No? Tu stai mantenendo qualche contatto, qualche linea preferenziale con interlocutori interessanti in Iran per capire cosa sta succedendo nelle ultime ore, dove come dire, si comincia a capire sempre meno cosa succede perché si cominciano ad asciugare le fonti informative, ma si capisce che cose stanno succedendo. Certo, come credo tutti quelli che hanno avuto contatti con l'Iran, in questo momento stiamo tutti cercando di estrarre notizie senza però mettere in pericolo le persone che le danno, perché sappiamo che ci sono sistemi di controllo, intercettazione, verifica, registrazione delle mail, anche del traffico Twitter, SMS, quindi chi si trova a dare notizie all'esterno, anche notizie non, come dire, segrete, rischia di essere considerato un traditore, una sorta di spia. Per esempio oggi, per dire quanto sia alto la nevrosi del regime, mi dicono che sono cominciate le perquisizioni dei telefonini nelle strade, cioè la gente viene fermata e viene verificata la memoria dei loro telefonini per vedere se hanno video o foto che potrebbero essere compromettenti, per cui il messaggio girato tra la catena degli utenti che partecipano a questo genere di manifestazioni è di scaricare tutti i contenuti dei telefonini, possibilmente mandarli su server esterni fuori dal paese e liberare sia la memoria del proprio computer che quella del telefonino per non lasciare tracce. Prima della breve interruzione per le notizie del traffico, volevo chiederti un'altra cosa. Sei riuscito a farti un'idea, Andrea, della reale forza, consistenza intesa come tenuta, capacità di sacrificio, naturalmente di sofferenza e di correre rischi e pericoli come quelli che stai enunciando ora, di questa onda di protesta iraniana? Hai la sensazione che ci sia un fronte davvero robusto, pronto a rischiare anche duramente in uno scenario di questo genere, o intravedi dei inevitabili, comprensibili segni di cedimento? Guarda, significa scommettere sulla disponibilità di qualcuno a rischiare la propria vita, e io spero proprio di non doverlo fare, spero che non nessuno debba metterla in pericolo, però quello che mi pare come dato evidente è che il regime ha sorpassato una linea di tolleranza e la gente non è più disposta a tornare indietro, non c'è più credibilità, il regime ha perso la sua credibilità ideologica, ha perso la giustificazione per la quale molti erano disposti e forse ancora in parte lo sono ad accettare questo originalissimo sistema di governo religioso, aristocratico, in nome di un ideale che era quello come ministra della rivoluzione islamica. Bene, a questo punto non è più così. Ora diamo le notizie del traffico, poi torniamo a parlare con Andrea Nicastro per capire ad esempio cosa succede attorno alla figura di Khamenei, che in questi giorni è a sua volta al centro di un piccolo terremoto. Side of a northern sea, the army had E siamo ancora in contatto con Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, fino a poche ore fa in Iran, ora rientrato alla base, ci sta aiutando a commentare, a capire gli ultimi fatti che stanno andando in scena a Teheran. Ci eravamo lasciati così, ripromettendoci di chiedere qualcosa a Nicastro riguardo alla figura di Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, l'ayatollah che pochi giorni or sono ha sponsorizzato in modo aperto, deciso, al di là anche delle previsioni, la figura di Ahmadinejad, in un certo senso legittimando e chiudendo qualsiasi possibile dibattito attorno alla sua nomina presidenziale. Eppure la stessa figura di Khamenei, Andrea, sembra a sua volta sottoposta, come dire, a turbolenze non indifferenti. È così? Sì, certo, è così, perché tutta questa vicenda ha due livelli: quello nelle strade, forse più appariscente, con i morti e le manifestazioni oceaniche, e quello dentro i palazzi del potere, nel quale si configurano queste elezioni, si configurano come un vero e proprio golpe nei confronti della vecchia aristocrazia col turbante, quella che aveva fatto la rivoluzione islamica 30 anni fa e ne aveva retto le redini fino all'ascesa di Ahmadinejad e del suo protettore Ali Khamenei. Khamenei, per dirne una, pochi giorni fa ha detto in modo perentorio è il caso di smetterla con queste proteste, anche la giustizia non è più importante della stabilità della Repubblica Islamica, quindi smettete pure di protestare. Bene, i due principali candidati dell'opposizione, Mousavi e Karroubi, hanno continuato a dire no, ci vuole il riconteggio, e anzi noi non riconosciamo il riconteggio del Consiglio degli Esperti che è in mano a Khamenei, e vogliamo un organismo di controllo indipendente. È un modo assolutamente inedito, del tutto inaspettato, violentissimo, di contestare l'autorità della guida suprema, qualcosa, appunto, Khamenei, qualcosa che fino a pochissimi giorni fa era impensabile. Impensabile non solo perché in piazza c'è qualcuno che osa dire morte a Khamenei o abbasso Khamenei, eccetera, che è una vera e propria bestemmia nel sistema iraniano, ma addirittura lo dicono dei personaggi in teoria intoccabili, in teoria pietre angolari dell'intero sistema, come sono un ex premier che per 10 anni è stato a fianco dell'imam Khomeini e un ex presidente come Khatami, come lo stesso Rafsanjani, tutti questi personaggi che oggi si ergono contro la figura stessa della guida suprema, la stessa istituzione della guida suprema. Ecco Andrea, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, abbiamo ancora circa due minuti, un interessante articolo esce sul quindicinale americano New Republic oggi e parla, prova a inquadrare questa figura di Mousavi e in un certo senso la presenta, la descrive come uno, passami l'espressione, capitato lì non proprio un po' per caso, ma un po' inciampato nella storia, viene definito più un follower, più un seguace che un vero leader, certamente un grande intellettuale, ma un intellettuale raffinato, non più che un leader conclamato. Ieri qui a Roma a dire le ragioni Mousavi si è presentato Makhmal Malbaf, che è un grande regista, ma anche qui siamo in un ambito fortemente, intensamente intellettuale. C'è quindi questa contrapposizione, se ne può parlare, di una contrapposizione comunque di un ruolo guida assunto da veri, quasi puri intellettuali, più che da politici veri e propri, contro quella che è a tutti gli effetti un'ondata violentemente populista come quella propugnata da Ahmadinejad. Ma da una parte c'è questa contrapposizione tra quelli fautori del buon governo, della competenza, che dovrebbero essere gli uomini dell'opposizione, e quelli che invece hanno usato il dividendo petrolifero e il populismo per raccogliere voti, certo, costruire consensi a spese dell'economia reale del paese. Questa è una tesi che passa. Ma una definizione stupenda, secondo me, di Mousavi è quella data proprio all'inizio di questa protesta dalla Reuters, come accidental leader, cioè un leader casuale che gli è capitato proprio lì per caso. Bene, Mousavi è stato premier per appunto quasi tutti gli anni Ottanta con Khomeini guida suprema, quindi non può essere casuale, non certo. È un uomo non politico, ma non è l'antipolitica Mousavi, certo, anzi certo. Mousavi è un uomo che appartiene intrinsecamente a quel sistema e l'ha accettato a lungo e ha accettato di far parte di quella ristrettissima selezione cioè su 60 milioni di iraniani solo 4 hanno potuto candidarsi come presidenti, perché solo 4 hanno potuto superare l'esame del Consiglio dei Guardiani. Vuol dire che questi 4 erano comunque accettabili, cioè avrebbero potuto dire erano parte del sistema. Bene, la rabbia della gente di questi giorni sta proprio qui. Cioè, ci avete dato 4 candidati da voi selezionati, uno è Mousavi, intellettuale, artista, con questa moglie femminista islamica che è molto più, come dire, assertiva di lui, ma noi l'abbiamo votato e adesso voi ci sfilate la vittoria. No, così non va. Questa è la rabbia, la prima origine della rabbia. Poi la rivolta è diventata qualcos'altro, poi la rivolta si è mescolata, adesso può essere alimentata dalla stessa reazione, dalle morti, dal lutto, dalla certo. cultura sciita propriamente del martirio. Va bene, Andrea, ci dobbiamo purtroppo fermare perché il tempo del programma è terminato, ma ti ringraziamo comunque del tuo intervento. Questo era Jefferson 2, tutti gli appuntamenti e le partecipazioni le conoscete, oggi siamo in ritardo, chiudiamo qui l'appuntamento, a domani dopo le 4 su Radio 24, ci sentiamo. 无所谓真假社会本来就是这样被误会又怎样被相信又怎样仿佛骑着游戏的人就心靠边疆狗狗社却非常灵敏可以闻到很多东西却又色盲黑白分辨不清观众也就跟着相信最重要的是对得起自己不变的道理高手过招戴着面具显得活得团结协议我回家去打坐取舍生涯性沉默的人最聪明不做无聊的回忆